Benvenuti, benvenuti in questo terzo episodio del mio salotto. Siamo qua sempre con Andrea e Jacopo. Ciao. Okay. Ciao. E stasera parliamo di un film che in realtà è la piaga di molte persone, e tra cui forse anche di Andrea. Già. Il film, come avrete visto dal titolo, l'episodio è sì, sulla Torre Nera. E intanto diciamo che la nostra scommessa dell'ultimo episodio si è aperta, ma noi registriamo dopo l'episodio della scorsa settimana, e quindi non abbiamo ancora visto un cazzo, non abbiamo né visto il film né niente, quindi non faremo commenti, il che è anche liberatorio in realtà. Allora, parliamo di questo film che è uscito nel 2017, quindi è vecchiotto, e che abbiamo visto tutti stavolta. E di noi tre, io e Andrea abbiamo letto i libri e Jacopo credo di no. Mi sono pentito. No, non ho letto. E li abbiamo letti tutti e sette, o c'è anche un ottavo nuovo, no? C'è anche un ottavo, sì, che sì. Che invece non ho letto. C'entra qualcosa con questo film? No, nella storia non c'entra. Ok, invece io ho letto tutti i fumetti. Cioè, tutti i fumetti usciti fino adesso. E che invece sono per lo più sulla storia di Roland, la storia prima degli eventi narrati nella Torre Nera. Allora, questo film appunto è del 2017, è un film statunitense, è un film che vede alla regia un Nikolai Arcel, che è una persona, che è un regista danese, che in realtà ha fatto, credo che i lavori più famosi che lui abbia mai fatto siano Uomini che odiano le donne, anche la serie TV. E non credo che abbia fatto niente di molto famoso. E io personalmente non avevo mai sentito. Invece nel cast c'è gente di un certo rilievo, perché c'è Idris Elba, che insomma è parecchio famoso, ha fatto Luther, ha fatto un film che abbiamo... ha fatto Thor, Molly's Game, ha fatto un sacco... cioè è Star Trek, è anche in Star Trek, non me lo ricordavo. Poi c'è... Sì, Matthew fa... nell'ultimo, ah, fa sì? Cattivo. Non me lo ricordavo. Gli ho rimossi Star Trek di J.J. Abrams. C'è Matthew Mahoney, che si presenta da solo, non credo abbia bisogno di persone che lo presentino, e che tra l'altro è tagliatissimo per la parte che fa, al contrario di Idris Elba. Io direi il contrario, però. In che senso? Idris Elba sembra più il... No, ma io dico esteticamente. Ah, ok. Cioè, esteticamente... È uguale! È uguale. Cioè, è come uno si immaginerebbe l'uomo in nero. Ed è okay, sì, l'antagonista, Matthew Mahoney, e poi di altre... altre attrici famosi c'è Claudia Kim, che è quella sudcoreana che ha fatto anche è vero, sì, ha fatto anche alcuni film abbastanza famosi, tra cui Animali Fantastici e anche in Age of Ultron, il film preferito di Andrea e Jacopo. E chi fa la dottoressa. Dopodiché c'è quella gnocca atomica che svale la visione del film, che è della madre di di Jake, di Catherine Winnick, che ha fatto anche Vikings, e poi c'è l'attore di Jake che invece io non conoscevo, Tom Taylor, però da qualche parte mi pare di averlo già visto, insomma vabbè. E quindi il cast è abbastanza grosso, non è un cast stellare, ma insomma è un cast costoso. La trama è diciamo che l'ambientazione e la mitologia del film traggono spunto dalle opere di Stephen King, e La Torre Nera e i vari romanzi che hanno seguito, gli altri 6/7 romanzi che hanno seguito. La trama in sé invece non ha niente a che fare con il film, già che con i libri, però insomma si può riassumere anche con il film stesso. si può riassumere col fatto che il protagonista in questo film è Jake, e già questo non ha molto senso visto che il protagonista dovrebbe essere Roland, almeno nella Torre Nera, e per quanto Jake sia un personaggio importante, anche se crepa nel primo libro, e Jake è un bambino speciale, ha degli incubi e delle visioni strane, vede un pistolero, una torre, un uomo in nero che cerca di distruggere la torre, e si ritrova in questo, e insomma, e pensa di essere pazzo. La verità è che lui probabilmente è uno dei pochi che ci vede davvero bene, vede davvero com'è l'universo, e quindi lui lui si avvicina, grazie a queste visioni, a un mondo, ad altri mondi oltre al proprio mondo, in cui c'è appunto un pistolero, un uomo in nero che cerca di distruggere una torre che è al centro di tutti gli universi. L'uomo in nero cerca di distruggere la torre per portare per arrivare all'apocalisse, e il pistolero Roland cerca di impedirglielo. E basta, il film è appunto è molto, cioè la trama, insomma, non la trama, l'idea è molto simile a quello che sono i libri, quindi è un film fantasy, ma in realtà i libri sono quasi fantascientifici, perché l'unica cosa, diciamo, tra virgolette, magica sta nel tocco dei personaggi, che però è più una sensibilità speciale dei protagonisti verso altri universi, e quindi è quasi un agente fantascientifico, e quindi si avvicina a questo universo narrativo di Stephen King, però poi lo sfiora e racconta tutta un'altra storia. Il film è stato un film molto costoso, circa 66 milioni di budget, e davvero è andato veramente veramente veramente male, perché ha fatto 113 milioni, quindi in realtà è quasi rientrato nelle spese, quindi praticamente non ha fatto nessun guadagno, e la critica l'ha demolito, cioè è andato, hanno detto tutti che è un film orrendo, e che è anche sia la critica sia il, non tutti però ovviamente la maggior parte, sia la critica sia il pubblico ha bollato questo film come un film brutto. Ci sono altri fatti e cose da dire prima di una riflessione che volete, qualcosa che volete dire? No. Allora, avrei tante cose da dire, ma nulla di positivo. Allora, dico io cosa ne penso, poi Andrea può dare libero sfogo. Vai, tranquillo. Allora, secondo me, La Torre Nera è una saga molto grande. C'è da dire questo. Presenta molti personaggi, sono molti libri, sono molte pagine, e non è facile, cioè è molto ambizioso risolvere un'intera saga in un film, e quindi questo sembra un po' un lavoro frettoloso, sembra un po' una sceneggiatura tagliata per fare qualcosa sulla Torre Nera e tagliarlo lì. In verità era anche difficile da fare, cioè è come se uno prendesse il ben conosciuto Harry Potter e lo riassumesse in un unico film, e capite che non è proprio una cosa semplicissima. Quindi in realtà quello che sceglie il film è di non guardare i libri e fare una cosa molto diversa. E secondo me è una buona idea. Cioè, a me in realtà il film è piaciuto. È piaciuto guardandolo non da fan della Torre Nera. Una saga che a me è piaciuta e che mi ha preso molto, però è, diciamo, è una saga ciclica, una saga che si presta anche ad altre... ad altre storie nella stessa ambientazione. Adesso non so se fare uno spoiler o no, però insomma, la saga della Torre Nera è una degli infiniti modi, viaggi di Roland nel raggiungere l'uomo in nero. Quindi in realtà questo film in sé potrebbe essere visto come una delle numerose volte in cui Roland insegue l'uomo in nero. E anche nella stessa saga letteraria, e Jake, per esempio, non è sempre Jake, adesso magari Andrea mi smentirà, no, però il Jake che troviamo all'inizio della saga non è lo stesso Jake che troviamo dopo, perché ci sono molti Jake, il primo Jake è quello che muore, E il Jake del finale, che muore anch'esso, è un altro Jake. E quindi in questo modo, in questa visione, anche questo film potrebbe essere un'altra storia che però tratta gli stessi personaggi e che comunque ritorna nell'universo narrativo della Torre Nera. Poi vabbè, è molto personale, secondo me è una chiave di lettura di questo film. E per il resto non ho molto da dire. A Stephen King, da quello che mi ricordo, è piaciuto e questo lo rende un film molto brutto, perché di solito i film tratti dai libri di Stephen King, Stephen King stesso dice che sono orrendi e non valgono niente, quando in realtà sono molto belli, di solito, e viceversa. Quindi se a Stephen King piace questo film, vuol dire che questo film è una merda. Però immagino che anche lui lo veda come un film parallelo, come una storia che non ha a che fare con la sua, ma ne condivide, i personaggi. Che mi dite? Ok, nel senso. No, nel senso che appunto cioè la saga della Torre Nera è Roland che insegue l'uomo in nero. E finisce come inizia, cioè Roland insegue l'uomo in nero. È una storia infinita, quindi ci sono molte storie, molti universi all'interno degli stessi personaggi, cioè applicate agli stessi personaggi, e questo potrebbe essere uno di quelli. No? Sì. Boh, vabbè. No, cioè di fatto le premesse sono le stesse, cioè la storia di Roland è la stessa qua, a parte che è nero e non lo è nel libro. Esatto, l'uomo in nero non è Roland. Mi Diciamo che dissocio, la sua mi storia è la dissocio. stessa, perché la battaglia, i ricordi che lui ha del passato sono gli stessi che sono nel libro. Non cambia nulla. L'unica cosa che cambia è tutto ciò che c'è dopo. Però anche nella stessa Torre Nera, ci sono dei non paradossi temporali, ma ci sono delle scene ricorrenti. Roland va a prendere due volte Jake nel suo mondo, mi pare. Andrea? La cosa cioè il passaggio di Jake nel mondo di Roland ha ripreso più o meno, cioè è Sì, quello nel però tutto il senso. seguito no, perché il seguito vedrebbe Roland che trova dei mutanti e poi Jake muore contro l'uomo in nero. Giusto? Sì. Jake muore perché Roland lo fa morire Sì, nel libro. vabbè, sì, certo. E poi dopo Roland va a ritrovare Jake in un'altra terra. Sì, ma grazie a Daddy Sì, e certamente, però Susanna. insomma. Quello che dico è che non è immutabile l'universo della Torre Nera, cioè ci sono universi paralleli e quindi questa potrebbe essere benissimo una di quelle storie. Boh, Ovviamente puoi non lo fare so. molti tagli perché ci sono molte cose non citate, o meglio citate ma non approfondite, cioè anche solo oggi lo riguardavo per fare questo episodio. E stavo ripensando alla rosa, cioè Roland è ossessionato dalla rosa, la rosa che è all'interno della torre, e in questo libro e in questo film non esiste una rosa, ma c'è solo un'immagine alla fine su un portale di una rosa. E ci sono altri elementi che vengono solo citati qui, e invece nel libro sono importanti, cioè il re in rosso. Il re rosso, Sì, il cioè nei muri ci sono. è Cioè, nominato, sono. Sì. mentre nel libro è centrale, cioè è lui Sì. Sì, l'antagonista, diciamo. Tra l'altro, esatto. però, vabbè, insomma, a parte questo, non so, se uno dimenticasse i libri, questo secondo me sarebbe un film come gli altri, cioè niente di particolare, ma neanche niente di così brutto. La Salla che dimentica il volto della Torre Nera. Ha dimenticato il Va bene, dai, Io provare anche un po' sinceramente voi. senza cioè anche senza prendere in considerazione la saga, cioè, letteraria, nel senso io cioè io non riesco a dire che è un bel film, cioè non ce la faccio, non ci riesco proprio, Ma non so. venire con atti di vomito. Jacopo che l'ha visto ma non conosceva i libri, cosa ne pensa del film? È un film. Esattamente, Cioè non è niente di speciale, però non è neanche così orribile a mio parere. cioè non mi è sembrato il film più brutto della storia, ma non mi ha neanche lasciato tantissimo. È interessante perché comunque fa dei, come posso dire, ha delle frasi, ha delle idee che sono molto da libro e sono molto carine, però non, cioè alla fine non è Allora, anche granché. perché l'idea di questa saga per Stephen King è un modo per riunire tutte le sue storie. È vero, ci sono molti riferimenti anche nel film. E anche nel film, esatto, questa cosa viene fatta. Non so se è molto fanservice, cioè se è fatta solo per il fanservice o no, però anche nel libro si cita molto le altre opere di Stephen King. Quindi siamo due persone su tre Sì, che dicono che non fa schifo. c'è proprio lui, c'è se stesso Sì, nell'opera. nel film, nel libro c'è anche Stephen King stesso, sì. Ah, ok. Però ecco, il libro è tutta un'altra cosa, cioè è veramente, l'universo è molto più vasto di quello che viene mostrato. Cioè, è troppo veloce comunque questo film, non Sì. si capisce nulla, cioè, No, boh, allora non ho so. notato oggi riguardandolo che ci sono molte cose brutte perché sono spiegate con dei piccoli spiegoni, degli spieghini che fanno le persone mentre le vivono. Per esempio, quando Jake entra, va verso il portale all'inizio e per Sì. superarlo deve superare un guardiano. Ora, Sì. tu non capisci un cacchio quando lo guardi, ma vedi che Jake uccide quella tromba d'aria e passa avanti. Questa cosa in un film, secondo me, potrebbe già rendere, ma loro hanno voluto dire, hanno voluto far dire all'uomo in nero ha superato il demone guardiano. Il demone guardiano serve a proteggere i portali, è molto utile, ma chi ha stocco puro può passare. Secondo me sono quelle cose un L'ha po' ucciso inutili. solo col pensiero, Esatto. wow. Secondo me queste qua sono le cose un po' inutili che lo rendono un film brutto. Abbastanza. Perché assomiglia un po' a Lanterna Verde, diciamocelo. Madonna, ho avuto la Però fortuna di non vedere. ecco, io non lo butterei totalmente via perché comunque non è male. Poi forse c'è un po' di valore affettivo, nel senso che parla di una storia che mi è piaciuta, insomma, di E c'è un'ambientazione che Matthew mi piace. McGonagall. Cioè, ma che a me non piace, a me piace Idris Elba, ma a me piace molto come attore. E la Ma il mamma di fatto che sia Jake. veloce, mamma di Jake, Sì, il fatto che sia veloce comunque alla fine ci hanno azzeccato perché non faranno mai un sequel, quindi a posto, hanno fatto tutto, hanno ne detto tutto. sei Ma in realtà oddio. la cosa che mi fa più arrabbiare del film è che nel finale il film finisce. E questo secondo me è assurdo perché invece la storia, la Torre Nera non dovrebbe finire. Una storia ciclica, dici? Non può finire con loro due che se ne vanno abbracciate, capito? Ed è chiaro che questo apre le porte a un sequel, però allo stesso tempo stravolge un po' quello che è la morale della storia. Non lo so. No, il fatto degli spiegoni è vero, cioè sono completamente fuori da ogni dramma, da ogni. Sì, Cioè, invece di fa proprio. mostrarti le cose, te le spiegano, a volte è una rottura di palle. Sì, ma poi cioè, sono proprio delle frasettine messe apposta per dirti, cioè per spiegarti la cosa, che in un film non sono necessarie, secondo me. Cioè, o fai come nel libro gli fai il pippone, e nel libro ci sono i pipponi di Roland che fa un pippone sugli pistoli e i pistoleri. C'è un intero libro che è Roland che racconta la sua storia. Il quarto, Sera del Esatto. buio. Cioè, Dove è un pippona? libro che ha un intero pippone sulla storia di Roland, cioè è lui il protagonista che racconta questa storia. Però ecco, i tempi della narrazione sono diversi nel libro rispetto ai tempi del cinema. E i tempi del cinema, secondo me, se vedi Jake che uccide il guardiano, non è che devi spiegare, ah, l'ha ucciso il guardiano, non l'ha neanche toccato, ah, solo, cioè, no, no. Comunque il mio giudizio sì, è fondamentalmente innocuo. E poi c'è Ma un'altra cosa Andrea? che dà molto No, fastidio. Andrea. no. Ma a me, cioè, tipo la scena di quando loro tornano a casa e trovano, vabbè, il padrino là morto, la mamma non c'è, nel senso. C'è l'ombra che è stata tipo Bruciata. bruciata viva. Lì sul muro con lo smile, ciao, che okay, quella, cioè, proprio The Mentalist, che cazzo è la ripresa del, mi Esatto, sembrava del film, sì. bruttissima la scena, non lo so. Boh. La scena Mm. quello finale con le pallottole mi sembrava Wanted di Angelina Jolie, cioè, non lo Ma so. scusa, Un film molto più bello. ricordami, l'uomo in nero muore in un modo particolarmente stupido, mi ricordo. Nell'opera Nel libro, letteraria, sì. lo Il mangia figlio il figlio del Re di Rosso. Roland. Ah, di Roland, Figlio di sì. Roland. Di Roland e Beh, è del anche il figlio Petro. del Re Rosso, sì. Esatto, sì. Però in un modo stupido, tipo che lui non se ne accorge e lo mangia. Cioè non c'è Lo niente di mangia. epico in tutto No, questo. no, non muore e basta, sì, sono troppi. Non lo so, Anche cioè. perché non è un valore effettivo il Walter, vabbè, sì, Walter, vabbè, lo Sì, stregone, Walter. nella Torre Nera, proprio per l'opera della Torre Nera, lui è importante per quello che succede prima della Torre Nera, Sì, con cioè la in realtà è storia. anche importante perché c'è Roland che comunque c'è lo stesso messaggio di lui preso dalla vendetta verso l'uomo in nero, che comunque ha ragione perché gli ha scopato la madre, ucciso il padre, cioè ha un po' tutte le ragioni Roland di avercela con lui. Senza Beh. dubbio, però l'obiettivo, cioè, rimane sempre focussato Sì, sulla Torre Nera, sulla cioè, Torre nel Nera e sul senso, Re Rosso. succede qualsiasi cosa, lui deve comunque arrivare a questa Sì, cazzo di sì. Torre Nera, è la cosa più importante per lui, Anzi, come, cioè. appunto, io sono rimasto perché lui ha l'ossessione per la rosa, che poi è la torre, e invece nel film questa cosa Nel non film non gliene esiste. frega un cazzo della Torre Nera, lui vuole solo uccidere lo stregone e Sì. basta. Sì, questo è molto diverso. Sì, hai ragione. E sì, gli ha scopato la madre e ucciso il padre. E distrutto anche il suo regno, quindi insomma, Sì, vabbè, ucciso tutti i ma suoi amici. Quindi ecco. lui comunque, cioè, lo stregone come personaggio sta anche in altre opere di King, sta nel libro, aspetta, però, Occhi del Drago, come si chiama? Ah, non lo so, io a me Ombra, molto. Ombra dello Scorpione, Ah, lui è ok. proprio l'antagonista nel libro Ah, Ombra dello Scorpione. Cioè, non lo lui, sapevo. vabbè, anche altri personaggi della Torre Nera sono presenti in altre opere di King, cioè si sono mischiati un po'. Tipo il prete, che qui non c'è nel film. Ma ecco, io invece non sono un amante dei libri di King, cioè so sta cosa che lui ha usato, ha citato, ha usato la Torre Nera come background dei suoi libri, ma non sono amante dei libri di King, non sono amante dei libri di King thriller, cioè quelli un po' horror. A me piacciono molto quelli nella raccolta stagioni diverse, quella Stand By Me, Gli Ali della Libertà, eccetera, ma non ho mai Miglio letto Verde. Il Miglio Verde, esatto, ma non ho mai letto altre opere. Peccato. Sì, mi manca, lo so, adesso prima o poi recupererò. Invece la Torre Nera, sì, la Torre Nera anche i fumetti mi hanno preso molto, che sono appunto la storia di Roland, prima che succedesse tutto questo, quello in cui gli scopre la madre. Gabriel Però ecco, sì, Deschamps. Esatto, sì, però il film non gli rende molta giustizia a Roland. Però ecco, non è, secondo me non è da buttare via, comunque è godibile, poi ci sono un po' di scene del cazzo. Ecco, se io dovessi andare al cinema e non avessi mai letto il libro, probabilmente andrei comunque a vedere La Torre Nera. So che la critica non lo farebbe. Tu, Jacopo, sei venuto con me, quindi non Un potrei andare. sequel? No, no, no, no, no, cioè se io non avessi saputo niente dei libri, sarei comunque andato al cinema per vedere questo film. Perché Nonostante c'è tutti ne parlavano bello. male. Potreste avere Vabbè, ho capito. Ah, ragione. e poi ecco, io dicevo, ma vabbè, Elba troppo, perché secondo me, cioè, da una parte lui ci è abituato a fare film trash, tu prendi Ghost Rider, prendi anche Thor, cioè Thor 2 soprattutto. Beh, in Luther lui è molto serio, però. Nella serie TV. Vabbè, comunque. Ok. McGonagall invece non tanto, cioè non ce lo facevo tanto da film trash, infatti, boh, non lo so, Ma in risulta un po'. quei 133 milioni di... No, in quei 66 milioni di budget, quanti ne sono andate a cioè, quanto è Ma stato una metà pagato? più o meno. Ecco. Ah, Il problema è questo, cioè, di quanti soldi aveva ok. bisogno prima di fare questo film? No, non lo so, non ho letto dichiarazioni di lui, però sì, hai ragione, lui di solito fa film impegnati o film comunque più o meno seri. E in questo film, tra l'altro, secondo me lui recita veramente da cani, nel senso che sembra quasi che vada con l'autopilota e fa un po' la parte dello stronzetto. Giusto? No, no, vabbè, Ah, non è... lui mi sembrava il com'è che si chiama? L'antagonista di Jessica Jones. Esatto, Quel sì, dottor è Who un altro faceva. che esatto, stava recitando palesemente di merda mentre faceva. Però L'uomo ecco, porpora. Muori. in Jessica Jones è Smetti di molto respirare. bello perché lui non c'è quasi mai. Cioè, la pressione psicologica dell'antagonista di Jessica Jones si percepisce perché lui appare poco. E quindi ti sale un po' di hype verso di lui. Cioè lui appare credo negli ultimi episodi, cioè tipo da metà stagione, qualcosa del genere. Cioè, come personaggio in sé, Fisso sì. Come come sì. persona, esatto, come Sì. attore. E Sì, questo verso non la fine. fa che aumentare l'hype e insomma un po' di timore nei suoi confronti. Invece se avessero fatto lo stesso con l'uomo in nero sarebbe stato bellissimo. Invece questo qua gironzola e cazzeggia. Anche la scena in cui lui dice alla bambina che sta mangiando un gelato. Tipo Odia. fa, esatto, odia, è una cazzata, cioè non è l'uomo Cioè, che... in nero, o meglio sì, però c'è cioè da, boh, sembra più Non serviva un cazzo di, quella esatto, scena, più come inutile per fare la proprio. battutina e basta. Sì, ho capito, Cioè, però dura tipo tipo un'ora e un'ora. mezza, un'ora e mezza, un film veramente corto con scene inutili. Sì, Sì, ho capito, però si sono... chiama Walter quello, cioè cosa volevate? Mica poteva fare, ah, sono tutto quello misterioso, serio, poi alla fine arriva e si chiama Walter, cioè dai. Non c'è Ma senso. per esempio nel libro non è così, perché il libro è il punto di vista di Roland o comunque dei compagni di Roland e non c'è praticamente mai l'uomo in nero. E questo, cioè che poi è così, però questo aumenta un po' il pathos che hai nei suoi confronti, o comunque le aspettative che hai nei suoi confronti. Qua tu vedi subito l'uomo in nero come quello che dice cambiati la faccia, no, quella faccia è molto carina, oppure mettiti una faccia nuova, cioè, hai capito? Fa il Capisco. simpaticone e ecco, boh, vabbè, è un po' così. Invece no, Idris Dai. Elba io. Sarebbe figo, sì. Cosa? Vabbè, ma lui Idris è Elba deve fare il prossimo James Bond. nero. Lui è Jameson. molto L'hai notato incazzato, il ma... treno, il trenino ciucciù nella foresta? No. Quando, cioè, verso, ma all'inizio, non lo so, quando stanno passando per la Lì foresta dove di c'è notte. anche il parco giochi. Esatto. Cioè, il trenino, quello del. Sì, ho capito. Sì, vabbè, è pieno di cose. Vabbè, lo psicologo ha la foto dell'hotel di Egg. Shining. Ah, sì? Lo psicologo di Jake ha la foto Su. sul suo comodino, sulla sua scrivania dell'hotel di Shining. Sì, è pieno di quelle cose lì che in effetti sono anche nel libro, quindi, cioè, no, non così. Nel libro un po' meno easter eggose, però è molto nella filosofia di Stephen King. Ho paura che l'abbiano fatto solo per marketing, cioè per fan service, però Non avere paura, Sal, è così. no, beh, cioè, nel senso è Non... anche nello spirito dell'opera. Però anche no, nel senso che lo psicologo non dovrebbe avere la foto della cosa, al massimo trovano, non so, la foto della cosa in un altro posto, ma non dallo psicologo che non c'entra niente con gli altri universi e il tocco e vabbè, comunque. Va bene, dai, insomma, Ok, avete qualcos'altro da... come... Siccome stiamo parlando di Stephen King, Sì. voglio, diciamo, fare riferimento a un altro film adattato da Stephen King che è It, quello nuovo, quello del 2017. Sono due però. Esatto. Il primo molto carino, il secondo, cioè, non so, a me è piaciuto il primo It, quello nuovo, capitolo Io di It ho visto 1. solo la serie, quella vecchia. Esatto, Sì, che in realtà era un film di 4 ore, tipo, cos'era infatti l'ho visto quello? come film di 4 ore. Anch'io. Però sta per uscire il capitolo 2, quello nel, tra virgolette, presente, cioè quello con gli adulti, in teoria. E perché appunto l'hanno spezzato, tra passato con i bambini e presente con gli adulti. Io voglio sperare che entro il 4 maggio, che sarà la prossima, prossimo episodio, uscirà un cazzo di teaser trailer per questo capitolo 2, perché hanno finito le riprese e uscirà a settembre. Questo settembre. Questo settembre, sì. Ah, wow. Ok. Quindi noi ci speriamo e proviamo a tirare a caso. Adesso io, quando registreremo quell'episodio che andrà in onda il 4 maggio, farò una ricerca su YouTube. Tu te le stai scrivendo queste cose perché io poi me ne scordo. No, adesso mi scrivo. Io farò una ricerca su YouTube e cercherò It Chapter 2, 2, Chapter 2, teaser o trailer, vabbè, quello che è. E cercherò i risultati che sono usciti, insomma, gli ultimi tempi. Se ci sarà il trailer vero, sceglierò quello, altrimenti sceglierò quello con più views. Quante views avrà quel trailer? Comincia Andrea. Beh, circa 1500 solo le mie, per esempio. Non saprei, sinceramente. Io ho, cioè, tipo, molte aspettative per il film perché il primo mi è piaciuto molto. Spero un sequel Beh, altrettanto il regista è bello. lo stesso? Non lo so. Oddio, immagino che la bella domanda sceneggiatura sia questa. stata scritta tutta insieme, o forse no? Allora, Andy Muschietti è quello che ha fatto. Sì, è lo stesso regista. Ok, Allora, quindi in ok, sì. teoria dovrebbe essere semplicemente un capitolo 2 di un film. Okay. In teoria. Gary Dauberman, esatto, lo stesso sceneggiatore anche. Ma il cast che c'è, cioè che si trova già su Google è È confermato, effettivo. buono. È buono, sì, è confermato. Almeno James Ah, McAvoy e davvero? Billy Nader hanno confermato. Sì. Ci sarà? No, davvero? Sì. Spettacolo, io adoro lui. Sono bravi loro. Quindi ecco, diciamo che si spera che nelle prossime 2 settimane e rotti uscirà un teaser, altrimenti il primo fan trailer che troveremo uscito di recente, quante views avrà? Non so quante views devono fare i trailer. Conta che vabbè, un Avengers fa tipo 50 milioni, magari un film normale con attesa abbastanza alta ne fa 300.000, non lo Secondo me ne fa so. 200.000. Allora, Andrea dice 1.902.311, perfetto. 1 milione? 1 milione di views. Andrea hai detto Salla. 1 milione di No, tocca a views. me, scusate. Sì. Io Tantissime. dico Io dico 400.000. Secondo me, ma è un teaser? Aspetta, in quanto tempo poi, scusa? Dipende quando uscirà, appunto. Questa è una scommessa Magari molto, esce il molto giorno difficile. prima. Diciamo che Andrea ha sparato il massimo, cioè ha sparato Ma io dico dopo un po' che c'è, nel senso, esatto, lo so. magari esce domani e Andrea c'hai tempo Allora, fino a 48 secondo ore. me ne fa zero perché non ne esce. No, però aspetta, Salla, guarderò comunque un trailer anche fan-made uscito di recente su YouTube. Tipo nell'ultimo mese, capito? Quindi l'ultimo mese, le ultime 2 settimane. Ho capito. Quindi, che ne so, per esempio, adesso c'è un fan-made trailer che ha fatto 400 views, uscito 3 settimane fa. Cacchio. Quindi magari. Allora, secondo me ne farà 1.000 perché sarà un fan-made. Ok, ci sta. Ma no, dai, io dico, cioè, se è ufficiale tutto, un milioncino, sì. Ah, un milioncino. Cioè, è ufficiale che esiste film che hanno finito di girarlo e che No, uscirà a settembre. il trailer ufficiale. Un teaser, Ok. qualcosa di ufficiale, un milioncino, sì. Va bene, ci sta. Va bene, allora per chiudere io direi che quindi noi in generale non suggeriamo la visione di questo film qualora qualcuno non l'avesse ancora visto, ma suggeriamo la lettura dei libri. E sono tanti, lo so, però con un po' di calma, invece guardare serie TV brutte tipo Game of Thrones, la gente prende più. E niente, noi ci sentiamo la prossima settimana. Volevate aggiungere qualcosa sul film? Posso. Andrea? È una merda! Ma forse che avrei, cioè, non lo so, per farlo riprendere un pochettino, almeno leggermente avrei cambiato il finale. Quella pallottola deviata, invece di uccidere Walter, avrei ucciso Jake. A quel punto sarebbe diventato epico per me, penso. In realtà, se Hai fossero, ragione, no, in realtà, se fossero stati coraggiosi e avessero voluto seguire un minimo la storia reale, cioè non nel senso la trama esatta del libro, ma la filosofia del libro, avrebbero potuto farlo tranquillamente perché in questo modo avrebbero impedito sia a Walter di rompere la Torre Nera, sia alla storia di finire. Che in effetti è molto dalla Torre Nera, quindi sarebbe aperto tutto per un sequel in cui Roland va a cercare altri compagni o comunque, come succede nel libro, viaggia a caso da solo nel medio mondo e sarebbe stato molto più simile alla filosofia, secondo me, della Torre Nera. io comunque, cioè, tu, davvero, cioè, mi mandi cioè, dove hai letto che a King è piaciuto il film, perché io non ci posso credere. Non mi ricordo, mi sa che Cioè, lui di l'avevo. solito è sempre super critico sui No, film che fanno, sui suoi libri. lui è critico sui Non gli va film bene un tratti dai cazzo. suoi libri belli, ma gli piacciono i film tratti dai suoi libri brutti, almeno Cioè, per storicamente. Shining, che comunque, cioè, è un capolavoro, indubbiamente, ha avuto da ridi, chissà, ha detto un sacco di roba brutta Ma infatti è un bel film. su di lui, vabbè. Aspetta, adesso cerco Stephen King, Torre Nera film. Magari sto cercando in inglese. Un'altra cosa, secondo me, io vedrei molto bene la Torre Nera perché in un film è difficile fa da fare, a meno di non essere molto ambiziosi, io vedrei molto bene queste storie come una serie TV. Perché ci sta come taglio. Why Sicuramente think? rende meglio di un film di 2 ore o di un'ora, vabbè, di 1 ora e mezza no, assolutamente, ma anche di 2 ore o 3 ore di film non riuscirà a Adesso non prendere trovo. cioè, tutta l'essenza, tutta la storia della Torre Nera, insomma. Con una serie magari sì, riesce meglio. Non trovo quello che dicevo. Vabbè, comunque sia, adesso lo cercheremo, lo allegheremo nell'articolo, forse, non credo proprio, perché non ne avrò voglia, però insomma, con questo volevo chiudere questo episodio sulla Torre Nera, al quale di nuovo consiglio la lettura di tutti i libri e anche i fumetti, se vi piacciono i fumetti, anche se costano l'ira di Dio tutti insieme. E ci vediamo la prossima settimana con un episodio su, lo sappiamo già. Abbiamo Ancora no, però abbiamo delle delle idee e anche spero di riuscire a convincere alcuni ospiti ad aggiungerci per alcuni episodi. Adesso ci stiamo lavorando, a particolari esperti nei settori di questi. Va bene. E niente, con questo vi auguro una buona giornata, serata o viaggio in macchina. Ciao ciao, alla prossima settimana. Ciao. Ciao!